La decisione di occuparmi di questo tema è nata da una piccolissima riflessione biografica, cioè anche se sono arrivata a un'età molto avanzata, ripercorrendo la mia vita mi sono resa conto di aver avuto sempre una paura che era già in se stessa violenza, paura di andare da sola nei luoghi dove si presumeva che io dovessi essere accompagnata, come un bar di sera o una discoteca o anche al cinema, paura di percorrere strade isolate o strade buie, paura di rientrare la sera, come se il mio corpo fosse vulnerabile a chiunque passasse. E mi sono resa conto che questa sensazione gli uomini non la provano e che questa è un'ingiustizia enorme che viene fatta a tutte le donne, in quel caso a me, proprio per il fatto di averci insegnato ad avere paura, a non sentirci tranquille, a non essere libere di fare quello che volevamo. E questa è stata la molla. E poi, come dice lei, mi sono occupata delle statistiche, dei casi più eclatanti, della reazione sociale, dei processi, ma quello che mi ha fatto nascere questa voglia di scrivere è stata la consapevolezza di questa esperienza negativa. All'interno del suo libro parla anche di come tramite le parole, poi il pensiero, il fine, il comportamento si rafforzino a vicenda riguardo appunto la violenza di genere e il sessismo, quindi partendo appunto dalle parole al pensiero fino al comportamento. Quanto si rafforzano a vicenda e si influenzano effettivamente? Moltissimo. Infatti il sottotitolo dice Cultura dello stupro, cosa che ha fatto scandalizzare alcune, che non vuol dire che ci siano dei libri che spiegano o che la società condivida una specie di ammirazione per gli stupratori, questo no. Però è pur vero che è come una piramide lo stupro e poi il femminicidio, che sono le esperienze più disastrose, le più tragiche, sono la punta di un iceberg. Sotto c'è tutta una serie di atteggiamenti, di linguaggi, di pensieri che non dico che giustifichino, ma che comunque tollerano questo tipo di comportamenti fino all'estremo di dare la colpa alla vittima di ciò che è successo. Lei sa quante volte si legge se l'è cercata, se non avesse avuto la minigonna, se non fosse andata a ballare la sera, se non avesse accompagnato il suo compagno nella sua casa. Tante di queste frasi che si sentono pronunciare dappertutto, che non dico che giustifichino lo stupratore, ma certo colpevolizzano la vittima, come se lo stupro fosse una specie di calamità naturale, inevitabile, e come se in ogni maschio si dovesse guardare una potenziale fonte di violenza. Io credo che di fronte a tutto questo dovrebbero essere i maschi a ribellarsi. Dato che non sono tutti così, dato che quelli così sono una parte minima, dovrebbero dare sostegno alle vittime per affermare, per dimostrare che si tratta di casi isolati. Invece purtroppo casi isolati non sono, perché le risatine, le battutine, gli apprezzamenti, le molestie che stanno intorno a tutto questo danno un quadro abbastanza condiviso di una situazione di sessismo diffuso. Sarà presente all'interno del festival La violenza illustrata con un incontro in cui si parlerà proprio del suo libro. Come si svilupperà questo dibattito? Il mio libro non è altro che lo spunto per parlare di un tema molto più ampio e anche un tema, come dire, positivo, di speranza, che riguarda che cosa si può fare per controbattere questa tendenza, per fare sì che gli stupratori siano sempre più isolati dalla società e sempre più puniti e nei processi non accada più che siano le vittime quelle su cui si appunta l'attenzione generale. Quindi parleremo delle parole tossiche che stanno dentro le nostre discussioni, i nostri incontri, ma anche dentro le nostre teste. Parleremo del modo in cui la famiglia, la scuola, i mass media possano far sperare e presentare un mondo diverso. Parleremo di come ci sia bisogno di formare le insegnanti, ma anche le magistrate, ma anche le poliziotte che si occupano di questi temi, perché le donne che subiscono anche soltanto la violenza psicologica, non addirittura quella fisica, siano accompagnate, sostenute, tutelate, insomma, come si possa creare una rete di protezione intorno alle donne e di riprovazione sociale di fronte agli uomini violenti.